Questa manifestazione, diciamo che da un lato si immette nel percorso già attivo da più di un anno rispetto all'avvertenza, alla lotta dei compagni e delle compagne di GKN, quindi con il grande, il vastissimo corteo che ha attraversato le strade di Firenze lo scorso anno, e diciamo che questo vorrebbe essere una possibilità di allargamento di questa lotta che per l'appunto, con delle parole d'ordine chiare, quindi per questo, per altro e per tutto, riesca a unire e intersecare, quindi contaminare una vertenza, un campo di lotta, un campo di contesa con tanti altri, quindi creando in qualche maniera appunto un vero e proprio corteo denso di contenuti, denso di anche realtà, singoli che vi partecipano, quindi un qualcosa di molto ricco, ibrido. La seconda tappa quindi di questo percorso vorrebbe proprio essere quella del 22 a Bologna, il 22 ottobre, con un determinante che è quello del passante di mezzo, quindi appunto rispetto a quanto già si è fatto in questa città per contrastare l'allargamento del passante della tangenziale di Bologna, e quindi partire da un tema prettamente in qualche maniera urbanistico ed ecologista per allargare poi a tutti quegli altri temi che oggi in qualche maniera sono protagonisti del nostro presente, quindi dal caro bollette alla crisi energetica, alle istanze transfemministe, a appunto le istanze degli studenti e delle studentesse dei licei, degli istituti superiori, a quelle degli universitari, quindi creare in qualche maniera spezzone unico, creare compost tra virgolette. Mette insieme tutta una serie di temi che in realtà poi sono correlati, no, fra loro. Esatto, è proprio la sfida della convergenza, ovvero partire dai propri percorsi singoli e ritrovarsi a convergere appunto tra virgolette su un punto cardine, e quindi è una sfida, ripetiamo, un esperimento rispetto a cui penso che nessuno in questa città e non solo ci si è mai trovato a interfacciare, quindi vedremo anche i risultati una volta superata la data del 22. Nell'assemblea del 5 ottobre scorso avete deciso un percorso che vedo che parte insomma anche dalla periferia della città. Sì, all'assemblea di settimana scorsa, quindi un'assemblea devo dire molto, molto vasta, molto partecipata, con interventi non solo in qualche maniera bolognesi ma che realmente si sono allargati su tutta la regione, diciamo che lì appunto si è deciso che questo corteo non sarebbe dovuto essere la solita ritualità in qualche maniera dimostrativa d'opinione, e quindi la scelta politica di non attraversare il centro e di invece dal centro, e quindi dalla piazza della stazione, piazza 20 settembre, per favorire anche in qualche maniera l'arrivo di chi si sta spostando in pullman, in treno per raggiungere la città di Bologna, ecco, creare lì il concentramento che però poi si sposti verso la periferia, verso in qualche maniera la convergenza vera e propria, e quindi verso la tangenziale. Quindi il percorso è pubblico e anche l'obiettivo politico è pubblico, quindi il corteo si pone come obiettivo quello di attraversare la tangenziale e una volta fatto ritornare nei pressi del concentramento, quindi si configura come un corteo in periferia, non al centro, e quantomeno diciamo che allude a uno sciopero metropolitano, uno sciopero sociale, quindi un blocco vero e proprio. Questo pomeriggio presenterete la manifestazione anche con una passeggiata, se ne vuoi parlare un po'? Sì, diciamo che oggi in qualche maniera è un po' una giornata di lancio del corteo, e in tanti e tanti ci sposteremo da Piazza Verdi alle 17, in qualche maniera con una passeggiata appunto rumorosa, comunicativa, che sa anche in qualche maniera portare lo spirito, no, di GKN, quindi anche di questa lotta che da un lato è molto determinata ma dall'altra parte sa parlare tanti linguaggi, sa parlare linguaggi artistici, sa parlare linguaggi in qualche maniera anche musicali, e quindi in questo senso pensiamo di spostarci per le vie della città fino a raggiungere poi l'Arena del Sole, dove da oggi inizia lo spettacolo a cui hanno lavorato compagni e compagne del collettivo di Fabbrica, che si chiama appunto Il Capitale, che sarà fatto, sarà svolto all'Arena del Sole da oggi e nei prossimi giorni della prossima settimana. Ecco, c'è anche un sito che è bologna22ottobre22.indivia.net, dove si possono trovare tutte le informazioni.